Buongiorno. Buongiorno a tutti, siete su Transizione di Fase. Questa è Social Full of Secrets, trasmissione che vi tiene compagnia ogni giorno, non più dalle 15 alle 17, come è successo fino a ieri, ma da oggi in poi saremo in onda dalle 16 alle 18. E cominciamo subito facendovi sentire un vecchio pezzo di musica elettronica. Lui è Plastic Bertrand e questa canzone si chiama Tout Petit Le Planète. La planète. Dunque, era Plastic Bertrand con Tout Petit La Planète. E dopo questo pezzo vorrei un attimino introdurvi a qualcosa che non ho mai mandato e tuttora non mi spiego il perché. Allora, stavo intanto spulciando le notizie. E ancora non trovando niente di particolarmente rilevante, ragion per cui ho deciso di introdurvi a un viaggio, forse il più importante viaggio di tutto il krautrock, sicuramente il viaggio che ha più influenzato un bel po' di musica che viene dopo. Su tutti i gruppi krautrock, di tutti i gruppi krautrock, i Kraftwerk sono quelli che si sono un attimino staccati dalla musica cosmica dei primi due album per approdare a quello che poi diverrà il loro marchio di fabbrica, ovvero quell'elettronica minimale che poi ha dato vita a tante cose dopo di loro. E la stessa techno credo che non esisterebbe se non fossero esistiti prima i Kraftwerk. E dunque dicevo, il viaggio più importante di tutta la musica cosmica tedesca forse è questa Autobahn dei Kraftwerk, tratta proprio dall'album Autobahn del 1974. Ora spero che riusciate a godervela tutta, perché si tratta di una bella cavalcata, bella lunga. E buon ascolto a tutti, queste Autobahn loro sono i Kraftwerk. Thank you. Radio an. Aus dem Lautsprecher klingt es dann. Dopo Autobahn e Kraftwerk abbiamo direttamente ascoltato On Your Shore di Enya. Enya che oggi fa il compleanno, oggi ricorre l'anniversario della nascita di Enya. Il 17 maggio del 1961 nasce Eitne Ni Braunain, in arte si fa chiamare Enya, dopo aver fatto parte per un breve periodo del gruppo dei fratelli chiamati Clannad a partire dall'88, e insieme ai fratelli Nicky e Roma Ryan proprio dall'88 trova la formula per fondere misticismo, New Age e arie irlandesi, ottenendo un impressionante successo come abbiamo potuto sentire con questa canzone. E, altra notizia è che il mondo del metal è in lutto. Ieri mattina si è spento a Houston Ronnie James Dio, a 67 anni, leggenda dell'heavy metal. È morto a causa di un tumore allo stomaco che gli era stato diagnosticato lo scorso novembre. Di origini italiane, era considerato una delle voci più particolari e potenti dell'hard rock. Ha cantato per band simbolo dell'heavy metal come i Black Sabbath, dove sostituì Ozzy, i Rainbow, e in seguito in gruppi formati da lui come i Dio e gli Heaven and Hell, sua ultima formazione con cui si è esibito dal vivo in Italia nell'ultimo Gods of Metal nel luglio scorso. Di Ronnie James Dio andiamo a sentirci questa sua Holy Diver. Never in Era Ronnie James Dio con la sua Holy Diver. E adesso parliamo di una cosa importante perché domani ci sarà alle ore 9 di mattina il presidio presso la Corte d'Appello di Catanzaro, poiché domani 18 maggio si apre il processo di appello al Sud Ribelle. Ragion per cui, per maggiori informazioni, vi faccio sentire questa cosa. Il 18 maggio a Catanzaro si riapre il processo al Sud Ribelle. La Procura della Repubblica di Cosenza, retta dal procuratore Dario Granieri, ha fatto ricorso contro l'assoluzione piena dei 13 militanti accusati di associazione sovversiva da parte della Corte d'Assise del Tribunale di Cosenza dello scorso 24 aprile. Ancora una volta la Procura cosentina dimostra il suo totale scollamento dalla realtà. Martedì 18 maggio, ore 9.30, piazza Matteotti a Catanzaro, appuntamento davanti al Tribunale per il presidio di solidarietà agli imputati. La repressione non ci fermerà. E allora, dopo avervi ricordato l'appuntamento di domani mattina, vi faccio ascoltare un polistrumentista minimalista francese. Lui è Guillaume Jan Tiersen, come nome d'arte usa solo Jan Tiersen, e nei suoi brani usa di solito strumenti come il pianoforte, la fisarmonica e vari tipi di violino. È stato spesso accostato a Erik Satie, Nino Rota e Penguin Café Orchestra. Lui è nato a Brest nel 70 e vive a Parigi. E noi ci andiamo a sentire un pezzo tratto dal suo live a Parigi del febbraio 2002. L'album si intitolava C'est ici e questa è La Parade, lui è Jan Tiersen. Nobody's in this room. Nobody's here for now. Wake up early. I know it's too late to enter the parade. Look at my feet moving slowly. I'm afraid it's alone. Thank you. Era Ian Tiersen con stavo leggendo nel Concert Milano e fa la recensione subito all'interno del corto cartelli che avvisano che lo spettacolo è diviso in due parti. La prima è un insieme di suoni e visioni in cui Rufus non vuole essere assolutamente applaudito e crea un'atmosfera irreale. Arriva Rufus con un passo funebre e si capisce subito che l'atmosfera è tutta intrisa di lutto, dato che la prima parte del concerto è tutta una riproposizione integrale di All Days Are Nights, ovvero il disco dedicato alla madre recentemente scomparsa, la cantante folk Kate McGarrigle. E la seconda parte invece è più divertente, il piano viene circondato da lumini e Rufus addirittura diventa chiacchierone, scherza, ride e il repertorio spazia su molti brani suoi e tutto il concerto si conclude con una cover della madre, la canzone Walking Song, con Rufus che prima di cantare spiega quanto il pubblico gli sia stato di aiuto in questo momento difficile. Dopo l'esecuzione di questo pezzo ringrazia in lacrime. E a questo punto è chiaro nella mente di chi fa la recensione che questo concerto non è stato altro che un'elaborazione collettiva del lutto di Rufus, che da grande artista sa trasformare il dolore in arte. Io Rufus Wainwright l'ho conosciuto con una cover di Leonard Cohen e ve la faccio sentire, anche questa è dal vivo. Sto parlando di Chelsea Hotel No. 2 e lui è Rufus Wainwright. I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed while the limousines wait in the street. Those were the reasons. That was New York. We were running for the money and the thrills. That was called love. For the workers in song, probably still is for those of them left. Oh, but you got away, didn't you, babe? You just turned your back on the. Got away. I never once heard you say I need you. I don't need you. I need you. I don't need you. And all of that jiving around. I remember you well. You were famous, your heart was a legend. You told me again you preferred handsome men, but for me you would make an exception. And clenching your fists for the ones like us who are oppressed by the figures of fix yourself and say, well, never mind, we are ugly, but we have the music. And then you got away, yeah, didn't you, babe? You just turned your back on the crowd. You got away, I never once heard you say. I don't mean to suggest that I loved you the best. I can't keep track of each falling robin. I remember you well at the Chelsea Hotel. That's all. I don't even think of you that often. Thank you. Era Rufus Wainwright con la sua riproposizione dal vivo del classico di Leonard Cohen, Chelsea Hotel No. 2. Il prossimo pezzo è di Ringo Starr, dato che molte volte ho parlato di Lennon e McCartney e le sue carriere da solisti, e abbiamo sempre tralasciato la carriera di Ringo Starr solista, che anche se è classificata come minore rispetto agli altri due, possiede dei bei episodi, come appunto questo. L'album era Vertical Man ed era datato 1998, e questa è una delle canzoni più spensierate che io mi ricordi. Si chiama La Didà, lui è Ringo Starr. Live my life, it's only right, 'cause I can live your life for you. I'm satisfied, feeling high, 'cause I found out just what to do. Well, you can bet I never let the things I get the best of me. When I get blue, here's what I do, and so can you. It is no mystery when you sing la, la-di-da. To cry, no reason why is ever good enough for me. We can take a walk, just laugh and talk, whatever's going to be will be. And when it rains, I don't complain. I'm like a train, I just keep rolling on. Sometimes you lose, you blow a fuse, you're not immune to what's been going on. Sing along. La, la di da. Say it's la-di-da. And when you're down, it can be found, turning around, you know the remedy. Just cut some slack, don't look back, 'cause it's a fact. It will be okay when you say la, la di da. Like a sera, sera, whatever, la di da. darkest day said, Kaiser. Ed era La Dida di Ringo Starr. Tra l'altro Ringo Starr è l'unico dei quattro Beatles che nella carriera solista può vantare l'aiuto di tutti gli altri tre. E, cioè, negli album di Ringo Starr ci potete trovare sia George Harrison che in altri album John Lennon e in altri Paul McCartney che ci suonano. Mentre lo stesso discorso non si può fare per gli altri tre. E dei quattro Beatles, Ringo Starr è appunto l'unico che in tutta la sua carriera solista si avvale dell'aiuto di tutti gli altri tre Beatles. E passiamo a uno dei pezzi più importanti del synth pop anni 80. Loro sono gli A Flock of Seagulls, gruppo formato originariamente dai fratelli Mike e Lee Score, con Frankie Motsley al basso e Paul Reynolds alla chitarra. E io mi ricordo la cosa che più ricordo di sto gruppo è che era il ciuffo stranissimo del cantante di Mike Score. Raggiunsero la popolarità grazie al video di questo pezzo che vi faccio ascoltare. Questo è I Ran So Far Away e loro sono i Flock of Seagulls. Thank you. Erano gli A Flock of Seagulls con I Ran. E vi volevo ricordare, dato che abbiamo superato la prima metà della trasmissione anche per oggi, vi volevo ricordare che domani, sempre alle 16 da oggi in poi, sempre su Transizione di Fase, domani tutta la puntata di So Full of Secrets verterà sul 30° anniversario della morte di Ian Curtis, indimenticato leader dei Joy Division. E ci ascolteremo un bel po' di cover di Ian Curtis, tributi a lui, e ripercorreremo i passi salienti della sua vita. E dato che non hanno neanche inciso poi così tanto i Joy Division, ci ascolteremo un bel po' di pezzi loro. E adesso per agganciarmi, se per così dire, alla trasmissione di domani, e ricordarvi che verterà tutta su Ian Curtis, ci ascoltiamo un pezzo dei New Order, ovvero gli stessi membri del Joy Division dopo la morte di Ian, che hanno un attimino svoltato i loro suoni da quell'atmosfera dark. Sicuramente New Wave di Joy Division, sono passati all'electro, seguendo il flusso di quello che era tutto il background che li circondava, ovvero la Factory Records. The New Order, andiamo a sentirci un pezzo tratto da un box della Factory Records dal titolo Communications. E questa è True Faith, e loro sono in New Order. Erano i New Order con True Faith, controllando le cover del Joy Division che domani ascolteremo. Mi sono accorto che in questa trasmissione ho mandato pochissime volte un gruppo cardine della musica contemporanea come i Radiohead. E dei Radiohead vi faccio ascoltare un pezzo della loro, possiamo dire, seconda produzione, dato che i Radiohead in teoria possono essere divisi in due, da Pablo Ani e The Bands a OK Computer, che è più o meno un album di transizione e che è quello che ha avuto più successo commerciale. Si passa poi a quegli album, se possiamo dire sperimentali, ma sperimentali solamente per il punto di vista convenzionale e commerciale della musica. Album come Kid Day, Amnesia, Hail to the Thief e In Rainbows. E tutto questo discorso però si può fare in teoria, perché in pratica tutti gli album dei Radiohead sono tutti capolavori e sono tutti non facilmente definibili e archiviabili in dei concetti banali come la parola genere. E ascoltiamo proprio un pezzo di Amnesiac, che è stato composto, album che è stato composto assieme a Kid Day, però sono usciti a distanza di un anno l'uno dall'altro. Kid Day è del 2000, Amnesiac è del 2001. Questa è la quarta traccia di Amnesiac, si chiama You and Who's Army. È un attacco alle autorità, specie quelle americane di quell'anno. You and Who's Army, loro sono i Radiohead. Come on, you think you drive me crazy. Come on, come on, you and your army, you and your cronies. Come on, come on, Holy Roman Empire. Come on if you think, come on if you think, you can take us on, you can take us on. You and your family, it's so easy. Era You and Whose Army dei Radiohead. Radiohead che più volte hanno fatto capire di essere stati fortemente influenzati sia dai Joy Division quando hanno eseguito la cover di Ceremony, sia dagli Smiths quando nello stesso concerto in cui hanno eseguito Ceremony hanno eseguito anche questa di Headmaster Ritual che vi faccio ascoltare. E questa canzone degli Smiths che vi faccio ascoltare appunto in versione originale è tratta dall'album Meet Is Murder del 1984, album che già dal titolo fa capire uno dei principi cardine della filosofia di Morrissey, ovvero l'essere vegetariano in tutto e per tutto. E questa canzone, proprio come quella che abbiamo ascoltato dai Radiohead, si lancia contro la società del tempo. Questa volta si parla della società inglese, e in particolare questa canzone è una forte critica a tutto il sistema scolastico inglese. Ve lo faccio ascoltare. The Headmaster Ritual, loro sono gli Smiths. Thank you. Ed era Headmaster Ritual degli Smiths, che vorrei ribadirlo, credo che siano il gruppo che più in assoluto ha influenzato quello che è venuto dopo di loro, un'influenza quasi silenziosa, un'influenza che però si può benissimo avvertire in tutta la musica inglese dall'89 in poi, praticamente dall'86 in poi, anno in cui si sono sciolti. E, dunque, il prossimo pezzo stavo appunto guardando un po' di cose. Il prossimo pezzo è uno dei pezzi che possiamo dire fanno da spartiacque tra l'Alex, ovvero il sottoscritto che si guarda in Sanremo in Sanremo, che i miei genitori Sanremo di cui i miei genitori mi cibavano a forza, al passaggio all'Alex, quello che si guardava i Festival Bar per conto suo, e che a un certo punto vede un'esibizione che poi mi è rimasta sempre impressa in mente, l'esibizione di Robert Plant da solista. Robert Plant, che fu cantante delle Zeppelin, e era il Festival Bar del 93, e era appena uscito l'album Songs and Adventure di Robert Plant, e questa canzone mi è rimasta impressa dall'esatto momento in cui l'ho ascoltata quel giorno davanti alla televisione. Questa è 29 Palms e lui è Robert Plant. Back to you. Oh, 29 Palms, lui era Robert Plant, non con le Zeppelin ma da solista, e siamo arrivati quasi alla fine, manca un quarto d'ora e io vi volevo anche ricordare, dopo avervi ricordato che domani la trasmissione verte tutta su Ian Curtis, volevo ricordarvi che il 6 giugno se passate da Roma, io ho preso il giorno libero anche il 6 giugno in un locale che per me ha voluto dire tanto negli anni passati, quando si chiamava Le Zepp, adesso si chiama Out Out, in quel locale, in una traversina di Trastevere in via dei Salumi. Domenica 6 giugno ci saranno dal vivo i Morfema 2.0 con i Fighi della Bella Fonte, e i Fighi della Bella Fonte li ho mandati recentemente, dopo aver trovato su YouTube il video della loro esibizione al giorno di inaugurazione di Transizione di Fase al Cesso della Cartella. I Morfemme invece mi sa che non li mando da un po', e non ho ancora registrato da loro MySpace quei due pezzi nuovi targati Morfema 2.0, ragion per cui vi devo mandare un pezzo di quell'unico album finora inciso, che si chiamava Siamo Tutti D'accordo tra parentesi. E questa è Eli Eli, pezzo che apriva quell'album. Loro sono i Morfema. Hier ist Radio Polonia, der Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks. Ich bin Anna Gluck. Herzlich willkommen, verehrte Damen und Herren, zu der Montagssendung aus Warschau. Unser Programm wird täglich auf Kurzwelle bzw. via Satellit ausgestrahlt. Es ist auch im Internet zu empfangen. Alle Sendezeiten und Frequenzen sowie Informationen über das Programmangebot der deutschen Redaktion finden Sie auch auf unserer Homepage www.polskieradio.pl/Polonia. Den Sendeplan können Sie unter folgendem Postanschrift anbieten. Heute auf dem Programm Nachrichten, anschließend die Presseschau. Dann finanzieren wir in einem Studiengespräch die ersten 100 Tage von der Kaczynski-Abstandsdienste. Wir beginnen als Kasztańska. Minister prezydent Kazimierz Marcinkiewicz rozmawiał na miejscu, od którego wydaje się być francuski rząd prezydent. Później Regierungschef mit einer Reihe große französische Arbeitgeber. Das Hauptgesprächsthema sind Wirtschaftsfragen. Die polnische Regierung würde mehr Investoren aus Frankreich und Polen holen und andererseits erwarten, dass die französische Seite den eigenen Arbeitsmarkt für polnische Arbeitnehmer erweitert. Er verurteilte mit scharfen Worten die Berufung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur Prüfung aller Privatisierungsvorgänge auf dem polnischen Bankensektor seit der Wende im Jahr 1989. Parlamentarische Untersuchungsausschüsse seien in der Europäischen Union ungewohnt und inakzeptabel, sagte Balcerowicz. Auch die Berufung einer von der Regierung zentral gesteuerten Bankenaufsicht bezeichnet er als eine beispiellose Tätigkeit. Der Präsident der Zentralbank kritisierte ebenfalls die jüngste Steuerpolitische Entscheidung. Es müssen Steuersenkungen und Haushaltsausgaben radikal gesenkt werden. Nur so ließe sich Arbeitslosigkeit und das Wirtschaftswachstum beschleunigen. Ein polnisch-chinesisches Forum zum Thema Kohlenbergbau fand in der Steinkohle, das entspricht der Jahresgewinnung aller polnischen Kohlezüge. Sicherheits- und Rettungsanlagen. Insgesamt die China beträgt die Jahreskohlengewinnung 2,2 Milliarden Tonnen. Das ist die Hälfte der Steinkohlengewinnung weltweit. Und nach Zusatz der Kohle, vereinzelt leichte Schauer bei Tageshöchstwerten zwischen 10 Grad im Norden und 16 Grad im Osten. Sie hören eine Sendung von Radio Bologna, dem Auslandsdienst des polnischen Rundfunks. Wir kommen zu der Presseschau. Montags gibt es in den Warschau-Sendungen normalerweise kaum aufregende politische Kommentare. Auch der heutige erste Tag der Woche bleibt relativ unpolitisch. Nicht nur, weil das Wochenende zu wenig politischen Stoff geliefert hätte, sondern vor allem, weil ganz wohl auch die Medien am ersten Jahrestag des Todes von Johannes Paul II. Des großen Verstorbenen gedacht haben. So bringen die Zeitungen ausführliche Berichte in Wort und Bild über die Gedenkfeiern und heiligen Messen in Rom und in Polen. Berichte von der gestrigen Freiluftmesse auf dem Piłsudski-Platz in Warschau, von der Gedenkfeier auf dem Petersplatz im Vatikan, vom Konzert in der Warschauer Nationaloper in Memoriam Johannes Paul II., das niemand anderer als Placido Domingo als Dirigent führte. Placido Domingo also dirigierte für den Papst die Messe der Requiem in Warschau, schreibt die Gazeta Wyborcza. Und Krzysztof Penderecki stand am Dirigentenpult mit seiner großen Lukas-Passion im Dom zu Münster. Era Eli Eli, loro erano i Morfema e come ho già detto saranno il 6 giugno dal vivo all'Out Out Club in via dei Salumi numero 3 a Roma. Saranno dal vivo assieme ai Fighi della Bella Fonte, progetto di Michelangelo che noi ascoltiamo dal CD autoprodotto Pedalando col mio amico di nome Smog. Questa è Novembre, loro sono i Fichi della Bella Fonte. Rotolati nel cellofan, perdevano acqua dentro al cammino, la befana che urlava di gioia. Non guardarmi di spiego, non son nato, son cieco. Le colline hanno gli occhi, sai. Le colline hanno gli occhi a metà. Se aspettasse novembre, se fiorisse la luna, se una chitarra suonata dal vento, se una pittura di foglie sui tetti, a cercare fortuna, come un lago che si tuffa dagli occhi e che vuole mandarci a dormire, ma parliamo forte, non riusciamo a sentirlo. Questa è città, non tenermi in giardino, come carne a marcire nel frigo, ma in un'ombra di filo, tra il calzino e l'orecchio, tra l'agnello e il bambino. Si sporge col naso dal secchio e cerca d'essere più umano. Manda baci, sorrisi e canzoni. Vorrebbe stare a giocare in cortile. Ma gli hanno detto che se non vuole problemi, può sanguinare davanti a uno schermo. Abbiamo ascoltato i Fichi della Bella Fonte con Novembre, che saranno il 6 giugno con Morfema alla 88 Club. E l'ultimo pezzo di oggi, dopo avervi ricordato che stasera alle 21 sempre su Transizione di Fase c'è Pink Moon, che quest'oggi sarà esclusivamente uno speciale su Sgt. Pepper. Alla fine di Pink Moon ci sarà Out of the Shell fino a luna di notte, e domani torneremo con Social Full of Secrets come sempre alle 16. Ci ascoltiamo una versione acustica tratta da dalle session che io e Dan abbiamo fatto per non mi ricordo quale televisione, comunque potete anche vederla su YouTube. Questa è fantastica versione acustica, scusate il taglio e lo sbalzo. A domani. Credi, io ti userò.